si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme sino alle 10, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie. Oggi sentiremo il primo inviato raccolto grazie alla nostra iniziativa Inviati Cercasi. Cerchiamo ogni settimana tra di voi qualcuno che ci racconti delle buone notizie. La parola per la parola chiave, il tema per la buona notizia di questa settimana è... Lavoro. Se siete a conoscenza di nuove start-up, di aziende che assumono, se siete stati assunti voi stessi, se invece siete a conoscenza di aziende dove, per esempio, adesso ce ne sono di aziende dove sono i dipendenti a farsi carico dell'azienda, magari che è andata in crisi e il datore di lavoro non c'è più e i lavoratori diventano padroni dell'azienda. Succede anche questo. Insomma, buone notizie su questo fronte, scriveteci, avete tempo fino a mercoledì a si può fare @radio24.it, segnalateci le vostre buone notizie, la più bella della settimana sarà chiamata a essere raccontata proprio nella puntata del sabato e oggi avremo il primo racconto. Più avanti, il tema che avevamo scelto la settimana scorsa era l'agricoltura. Allora, adesso andiamo ad iniziare. And now, the good news! Come sempre ogni mattina per iniziare una buona notizia, questa è una piccola buona notizia che riguarda la città di Milano. Abbonamenti urbani annuali gratuiti per i mezzi pubblici, per i disoccupati, i precari. È online il bando per poter fare domanda. Tutti i disoccupati, i precari possono andare sul sito del comune, fare domanda per avere l'abbonamento gratuito ai mezzi pubblici. È un piccolo aiuto, però insomma meglio di niente. Si può accedere appunto almeno a questa risorsa se si è disoccupati. Questo è un piccolo esempio di buona notizia che riguarda il mondo del lavoro. E aspettiamo in settimana le vostre segnalazioni per partecipare al contest Diventa l'inviato. Su Twitter abbiamo scelto come hashtag Inviati Cercasi. Adesso andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Iniziamo con il Corriere della Sera, stretta sui manager pubblici. Dal 1 aprile taglio agli stipendi. Il ministro Madia, ministro della pubblica amministrazione, annuncia troppi dirigenti e troppo anziani. Poi ci sono le critiche di Visco a imprese e sindacati. Basta rigidità, che succede? Rileggiamo il governatore della Banca d'Italia Visco: lacci e lacciuoli di imprese e sindacati frenano la crescita. Questo ieri. C'è anche la fotonotizia di Obama che dopo l'Italia ha lasciato l'Italia a Riyadh in Arabia Saudita. Ieri ha parlato col presidente russo con Putin e gli ha detto: ritiri le truppe dal confine ucraino e si apra un negoziato. La notizia è che Putin ha chiamato Obama per trattare sull'Ucraina ed è quindi una buona notizia. A proposito di buone notizie, il Corriere in prima pagina scrive: torna il benefattore che regala soldi, assegni circolari nelle cassette postali lasciati da un anonimo. Ebbene sì, 40.000 euro, tutti in una notte. Il benefattore seriale di Busto Arsizio colpisce così, approfitta delle tenebre per infilare buste con assegni circolari nelle cassette postali delle onlus senza lasciare traccia. Premia l'impegno di chi si occupa di minori, disabili, malati. Il suo primo blitz è di 9 mesi fa, ma la settimana scorsa si è ripetuto. Un assegno da 10.000 euro è stato inserito sempre di notte nella cassetta delle lettere della Unitalsi, l'associazione che assiste e accompagna i malati a Lourdes. È bravo il benefattore misterioso. Repubblica titola così: il grande spreco delle SPA di Stato ci costa 13 miliardi. È un'inchiesta che riguarda la galassia, come sospinta da un Big Bang non smette mai di espandersi. Le SPA di Stato, un mondo a sé che vive con i soldi di tutti. 12,8 miliardi di euro, fatto di anomalie, contraddizioni, paradossi, scandali, dove la politica si intreccia all'affarismo. Una galassia da oltre 7.000 partecipati degli enti pubblici, una mega holding da circa 43 miliardi di fatturato. Ci sono quasi 16.000 amministratori, circa 12.000 componenti degli organi di controllo Insomma, questa inchiesta perché adesso? Perché è la notizia è che appunto dal 1 aprile, con la pubblicazione in Gazzetta del provvedimento partito con Monti e andato avanti con Letta sul taglio degli stipendi dei manager pubblici e anche con l'annuncio della riforma della pubblica amministrazione da parte del governo e del ministro Madia. Torniamo infatti un attimo sul Corriere, che intervista il ministro Madia. E lei dice: partiamo con la riforma della dirigenza tra fine aprile e inizio maggio. Non abbiamo ancora deciso lo strumento, ma i contenuti sono chiari. In Italia ci sono troppi dirigenti, troppo anziani, che non ruotano e per i quali si è formata una giungla retributiva che non risponde né a criteri meritocratici né a elementi oggettivi. Ci sono persone che fanno la stessa cosa, magari in ministeri diversi, hanno retribuzioni molto distanti. La retribuzione deve dipendere, dice la Madia, dall'attività svolta e dai risultati, non dall'ente al quale si lavora, nel quale si lavora. Poi ancora, la riforma Brunetta non ha funzionato, dobbiamo stabilire un meccanismo di valutazione più semplice, legato a obiettivi non scontati da raggiungere, ma non a livello individuale, bensì valorizzando soprattutto i risultati dell'ufficio che si dirige. I premi scatteranno solo a fronte di un evidente miglioramento della performance e ci saranno anche dirigenti che non li prenderanno. Così il ministro, che poi risponde alla domanda: è vero che nel 2014 i premi saranno sospesi? Non c'è ancora nessuna decisione in merito. Meglio far partire subito il nuovo sistema di valutazione. Quanti dirigenti manderete via? Domanda delle 100 pistole. Risposta del ministro Madia: faccio un esempio. Se in un posto mando in pensione leggermente anticipata 3 dirigenti, non devo per forza sostituirli. Magari al loro posto basta prendere un funzionario. Con questa staffetta generazionale riduco, svecchio e risparmio. Quindi la ricetta è: in pensione magari anticipata 3 dirigenti della PA, che costano un bel po', assumo uno giovane che lavora magari non per 3 ma per 2, il risparmio è assicurato, l'efficienza, dice il ministro Madia, degli uffici della pubblica amministrazione pure. A proposito del taglio degli stipendi dei manager, che cosa è stato approvato? Fino a 311.000 euro al massimo per gli amministratori delegati di fascia, delle aziende di fascia A come l'ANAS e la RAI. Qua il presidente prenderà circa un terzo, fino a 93.000 euro. È già così all'ANAS, scrive il Corriere. Alla RAI la presidente Anna Maria Tarantola si è ridotta il compenso l'anno scorso. Poi c'è la fascia 2 che riguarda CONI, ENAV, SOGEI, SOGIN, dove l'amministratore delegato prenderà fino a 250.000 euro e non tutte le società si sono già adeguate, quindi qualche risparmio ci sarà. Poi c'è la fascia 3, dove i numeri 1 non potranno guadagnare più di 155.000 euro, e anche qua ci sono società che si devono adeguare. Non riguarda questa partita, non sono di questa partita l'Enel, l'Eni, Finmeccanica, Ferrovie, Cassa Depositi e Prestiti e le Poste, cioè le aziende quotate, quelle che emettono azioni. Il Sole 24 Ore, il commento di Fabrizio Forché su questa sforbiciata: sono dovuti passare 2 anni, il tetto ai compensi delle società controllate non quotate diventa operativo a 27 mesi dal decreto Salva Italia che l'aveva introdotto, e anche in questa tempistica la cartina di tornasole di quanto sia difficile intervenire sulle retribuzioni pubbliche. Quel tetto è un passo nella giusta direzione, ma il suo percorso tormentato insegna molto della distanza che in Italia passa tra gli annunci e le realizzazioni. Il Sole 24 Ore riporta anche questa notizia: più istruzione aumenta il PIL. Il rapporto del Centro Studi di Confindustria, l'incremento fino al 15% in 10 anni. Un aumento infatti del PIL equivalente a 234 miliardi. Uno scenario possibile se il livello di istruzione italiano salisse agli standard dei paesi più avanzati. È quanto emerge dall'analisi del Centro Studi di Confindustria presentata ieri a Bari al convegno Il Capitale Sociale, la forza del paese. E questa sarebbe una bella direzione su cui investire. Noi ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo. Torna la rassegna stampa europea, giornale radio, e noi con la lettura dei giornali, gli approfondimenti, le buone notizie torniamo dopo alle 8.15 con anche il numero verde, a più tardi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, potete chiamare per commentare quello che sentite, i fatti di giornata con la rassegna stampa, tra poco i nostri approfondimenti, le buone notizie. E vi ricordo anche che la parola chiave di questa settimana per inviarci le vostre proposte di buone notizie è... lavoro, lavoro, lavoro. Vogliamo che questa settimana ci inviate le vostre buone notizie, se riuscite a trovarle nella vostra città, nel vostro quartiere, nella vostra regione, start-up, nuove aziende, tutto quello che volete. Tra poco, più avanti, partiremo con il primo approfondimento di giornata dedicato a una proposta di legge che c'è in Parlamento per far lavorare nei lavori socialmente utili, per esempio, i lavoratori disoccupati momentaneamente sussidiati, ed è una cosa che già avviene in alcune città, per esempio a Belluno. Sentiremo il sindaco di Belluno, Massaro, che ci racconta di questa esperienza. Dunque, questa settimana lavoro, per inviarci le vostre proposte di buone notizie scriveteci a si può fare @radio24.it. entro mercoledì selezioneremo la proposta più bella e sabato prossimo la manderemo in onda. Oggi sabato mandiamo in onda il primo inviato tra di voi cari ascoltatori, per parlare del tema che avevamo scelto settimana scorsa, che era agricoltura. Lo sentiremo alle 9.30. Adesso andiamo a dare ancora un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Per esempio la Stampa titola sullo scontro tra Visco e i sindacati, il governatore della Banca d'Italia, loro e le imprese frenano lo sviluppo. Poi tutta la questione economica, Renzi niente ultimatum sul lavoro, lunedì la riforma del Senato. Replica la Camusso a quello che ha detto Visco, propone politiche fallite, Bonanni parole a vanvera, il ministro dell'economia Padoan dice l'Unione Europea cambi politica economica. Devo dire che le parole del governatore della Banca d'Italia Visco sui lacci e lacciuoli da parte di imprese e sindacati non è che abbiano scaldato molto, credo, i cuori degli italiani, che sì, sono a conoscenza del fatto che in Italia ci sono lacci e lacciuoli un po' da tutte le parti. Certo, quelli delle banche di lacci e lacciuoli non sono proprio gli ultimi in ordine di classifica, con tutte le difficoltà di accesso al credito per le famiglie e le imprese di questi tempi, alle banche che sono state inondate di prestiti all'1% dalla BCE solo poco tempo fa, 200 miliardi alle banche italiane, e che le banche diciamo, quindi ecco, dal governatore Visco con più coraggio ci si poteva attendere parole anche su questo, insomma, sul fatto di presiedere la Banca d'Italia, organo di vigilanza delle banche che sono proprietarie della Banca d'Italia. Ecco, questo poteva essere un laccio e un lacciuolo su cui era più coraggioso intervenire da parte di Visco, ma si sa, ognuno punta il dito nel giardino degli altri. A ricordarci la posizione, diciamo, di favore che di cui le banche godono in questo periodo è il Fatto Quotidiano. Le banche incassano 4,6 miliardi, gli italiani si vendono 300 tonnellate d'oro. Che succede? Decreto sulla rivalutazione delle quote Banca Italia nei bilanci, è arrivato il regalo per Intesa e Unicredit, la Corte dei Conti indaga, mentre gli italiani impegnano i gioielli di famiglia per 14 miliardi di euro in solo i 2 anni. Leggiamo all'interno del Fatto Quotidiano che scrive: il regalo è ancora da spacchettare, ma intanto la rivalutazione delle quote di Banca Italia ha ridato ossigeno ai bilanci dei big del credito, che in questi giorni hanno annunciato i conti del 2013. In totale parliamo di 4,6 miliardi considerando solo le grandi firme. Infatti il dettaglio è questo: 2,5 miliardi a Intesa San Paolo, 1,4 a Unicredit, 299 300, quindi milioni di euro, gruppo Carige e via andando nei gruppi minori. Si tratta della legge che innalza, quella delle polemiche di fine anno, ricorderete, da 156.000 a 7,5 miliardi il valore del capitale sociale di Banca d'Italia, firmata dall'ex ministro Saccomanni, allo scopo di aggiornare il rendimento delle partecipazioni delle banche all'Istituto Centrale, raccogliendo circa, e questo era il punto che interessava al governo, 1 miliardo di risorse dalla tassazione delle plusvalenze generate. Il meccanismo ormai l'abbiamo capito tutti, era questo. Ecco, insomma, il fatto ci ricorda le notizie sulle banche. Invece Repubblica si occupa della questione F-35. Perché? Il rebus dei tagli, scrive Repubblica. Renzi anche sugli F-35, ma il ministro Pinotti rassicura i militari. Sentiamo cosa è successo. Allora, ma che rinvii, tagli o sacrifici? Le forze armate possono stare serene, dice il ministro Roberta Pinotti, perché la cura dimagrante non sarà nient'altro che una razionalizzazione, niente passi indietro sugli impegni per la sicurezza nel mondo, ha ribadito il ministro ieri a Pratica di Mare all'anniversario della fondazione dell'aeronautica militare. Rendere lo strumento militare più efficiente, ha detto, non significa togliere quello che è essenziale, ma evitare sprechi. Anche se Renzi poi ieri sera da Mentana in televisione ha spiegato che i tagli potrebbero arrivare proprio anche su quel particolare contratto, quello di acquisto degli F-35 dall'America. Però il capogruppo del PD a Montecitorio, Speranza, ha ribadito: l'Italia non può permettersi di non avere un sistema di sicurezza efficace. Gli F-35 non sono inutili. Insomma, c'è dubbio, c'è mistero. Ci saranno o no questi tagli? Ci saranno, forse, ma saranno meno di quelli annunciati precedentemente. Insomma, il coordinatore nazionale di SEL, Nicola Fratoianni, commenta questo come l'ultimo voltafaccia del governo. A proposito di uno degli annunci più importanti del governo, quello degli 80 euro in busta paga, il giornale oggi titola così: a rischio gli 80 euro, sotto le demagogie niente. Coperture insufficienti e tempi stretti, il governo in crisi sulle promesse ai redditi più bassi, via i manager pubblici sotto processo, questo abbiamo già letto, il ministro Padoan fa fuori i vertici di Enel ed Eni. Insomma, il giornale dice che gli 80 euro in busta paga annunciati da Renzi sono a rischio, è la stessa linea che ha anche il Libero, che dice: ecco le buste paga che ci darà Renzi, il premier deve mantenere la promessa degli 80 euro in più, però non ha i soldi, così si profila la furbata, ridurre il numero dei beneficiati da 10 a 7,5 milioni. Tetto agli stipendi dei manager pubblici, ma per finta i big sono esclusi, così scrive Libero. Il giornale poi c'è anche la foto di Obama e Franceschini che si stringono la mano di fronte al Colosseo e la notizia è: Matteo chi? Sui giornali americani solo una riga, l'America snobba Renzi. Negli Stati Uniti quotidiani e TV parlano esclusivamente di Obama in Vaticano, cioè ricordarci che l'Italia conta un tubo sulla scena internazionale, conta meno del Vaticano. Ci pensa il giornale oggi, ma questa non è una grossa novità che il Vaticano faccia più notizia dell'Italia dalle parti dell'America. Più curioso semmai è che nei video sul sito della Casa Bianca c'è un frame con Obama che non stringe la mano a Renzi ma appunto a Franceschini, al ministro dei beni culturali, davanti al Colosseo. Cioè, anche qui, a dire la notizia più importante non è l'incontro politico con Renzi, l'alleato italiano, ma con il ministro dei beni culturali di fronte al Colosseo, perché forse è più noto il Colosseo in America di Renzi. Ma anche questo credo che non sia una grossa novità sul fronte, insomma, dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il Messaggero c'ha un'altra notizia e riguarda anche qui un lato della spending review sul fronte delle forze dell'ordine e della sicurezza. Scure sulle scorte, ridotti gli agenti e concorso spese. È in arrivo la circolare di Alfano ai prefetti sui 3.000 uomini assegnati a 500 personalità. Il ministro dell'interno ha inviato una direttiva a tutti i prefetti per ridurre il numero di agenti utilizzati nelle scorte. Con la direttiva si introduce anche la possibilità di chiedere ai tutelati o alle loro amministrazioni di appartenenza una sorta di concorso alle spese, cioè dateci una mano a pagare la scorta per il magistrato, per il consigliere regionale, non so, per gli altri obiettivi sensibili, giornalisti, imprenditori che sono sotto scorta. Quali sono i numeri attualmente? 255 milioni, ci ricorda il Messaggero, all'anno è il costo del servizio scorte, complessivamente parlando. 3.000 gli agenti impegnati, 17 sono i soggetti che hanno diritto alla scorta massima, 500 invece i soggetti scortati complessivamente tra appunto magistrati, politici, imprenditori e giornalisti. E appunto la novità è che Alfano chiede ai prefetti di, che poi assegnano queste scorte, di tagliare, insomma, laddove è possibile, di ridurle, eventualmente chiedendo un contributo spese anche agli amministratori di competenza. Sul Messaggero c'è anche la notizia che riguarda i Marò, che devo dire sui giornali italiani, insomma, in generale è passata un po' in secondo piano, accolto, però notizia importante, se ne è parlato per mesi, ma la stampa del resto fa così, a ondate. Accolto il ricorso, Marò, l'Italia chiede il rientro immediato. I giudici indiani hanno dato ragione all'Italia. Ai Marò non si può applicare la legge antiterrorismo. Palazzo Chigi ha detto: chiediamo subito il rientro immediato a questo punto. L'Unità invece ci ricorda una notizia, ieri c'è stata la direzione del PD, una notizia interna al Partito Democratico, ma essendo il partito del Premier è importante per le prossime mosse del governo. Renzi blinda il decreto lavoro, il segretario ottiene il sì dalla direzione, però con 12 no e 8 astenuti, attenzione. Lunedì arriverà la riforma del Senato, l'Italicum, cioè la riforma della legge elettorale, arriverà dopo, quindi slitta. Alcuni giornali scrivono a dopo le europee. Vice segretari vengono nominati la Serracchiani e Guerrini, la minoranza che critica sui precari scelte sbagliate. Renzi difende il decreto lavoro, no agli ultimatum, arriva il sì dalla direzione del PD, appunto, come dicevamo, ma la minoranza è critica e ci sono 12 voti contrari e 8 astensioni, quindi sarà da vedere come andrà a finire, insomma, poi nella tenuta anche parlamentare delle riforme. Prima Renzi ha tenuto bene, ha avuto tutte le maggioranze che doveva avere in Parlamento, però staremo a vedere. 800 24 00 24, rientriamo tra un attimo e come detto affrontiamo il caso di Belluno, una delle prime città in Italia che riesce a far lavorare, naturalmente su base volontaria, i disoccupati sussidiati, cioè persone che non hanno lavoro al momento perché le loro aziende sono in cassa integrazione, ricevono il sussidio e anziché stare a casa a girarsi i pollici hanno deciso spontaneamente di andare chi in biblioteca, chi al centralino, chi a ripulire i parchi comunali. 800 24 00 24. E allo studio a Roma c'è anche una legge nazionale di Pietro Ichino per favorire, per facilitare questa possibilità. Ne parliamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Nessuna risorsa vada sprecata, lo ha detto il ministro del lavoro Poletti, riferendosi al mondo del lavoro. Nessuna risorsa, nemmeno per esempio i lavoratori disoccupati in cassa integrazione, che normalmente non fanno niente, non sono occupati in nessun modo, per l'appunto. Invece c'è una proposta di legge, intanto a Roma, di Pietro Ichino, primo firmatario, una proposta bipartisan per facilitare la possibilità di fare lavori socialmente utili ai cassa integrati, naturalmente su base volontaria, al momento non si può obbligare nessuno, è quello che accade per esempio a Belluno già, e noi abbiamo convocato il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, per farci spiegare come, quando e perché. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, intanto abbiamo letto che sono 6 le persone al momento che mi confermerà su base volontaria, 6 disoccupati sussidiati che state coinvolgendo in questo progetto del comune, così? Ma allora, diciamo che intanto ai 6 se ne sono già aggiunti altri 6 nel frattempo, quindi siamo a quota 12, nel senso che abbiamo raddoppiato la parte, diciamo, di persone con qualifica operaia, che sostanzialmente quindi possono lavorare appunto sulle manutenzioni delle nostre strade, che ne hanno veramente un grandissimo bisogno. Sul discorso della volontarietà, diciamo che qui è un punto abbastanza complesso. Noi già abbiamo numerosi volontari che danno una mano, abbiamo creato un albo del volontariato, le persone si iscrivono, il comune ti chiama, ti chiede di fare delle cose, ti dà le strumentazioni per farlo, quindi abbiamo già, diciamo, una modalità molto abbastanza avanzata di gestione del volontariato per la città. Nel caso invece appunto dei lavoratori socialmente utili, quindi delle persone che oggi sono, diciamo, disoccupati e che stanno godendo di, come si può dire, di sussidi, insomma, diciamo, di ammortizzatori sociali, la norma oggi ti consente di richiedere all'ufficio del lavoro l'impiego appunto di alcune persone, ovviamente per periodi di tempo abbastanza limitati, ed è quello che noi oggi stiamo facendo, perché, diciamo, il concetto di base dovrebbe essere che la persona disoccupata in questo modo effettua una nuova esperienza lavorativa, che quindi diventa anche, finisce nel curriculum, non so come dire, cioè si impara, no, qualche cosa. Certo, può essere un momento anche per iniziare a magari se la crisi dell'azienda coinvolta è una crisi più ampia, oppure se il lavoratore che in quel momento riceve il sussidio, proprio il lavoro l'ha perso, allora è chiaro che bisogna guardare anche al futuro e fare un'esperienza. Io avevo letto, per esempio, oltre alla manutenzione delle strade, anche in biblioteca, ad aggiornare le banche dati del comune. Esattamente, infatti questa è una appunto delle, abbiamo cercato di individuare anche delle, diciamo, delle attività che consentissero in qualche modo appunto anche alla persona di poter effettuare una esperienza di tipo aggiuntivo. Essere impiegato in una biblioteca è comunque effettuare un'esperienza abbastanza, come possiamo dire, particolare, no? E quindi aggiuntiva magari rispetto a una mansione amministrativa che uno normalmente ha nella propria, o che aveva nella propria azienda. E quindi sostanzialmente si cerca, diciamo, di coniugare da un lato la necessità dei comuni. Io ho sempre detto, in questo momento qui i comuni non hanno il problema dei soldi, o meglio, hanno il problema dei soldi, ma la vera emergenza è il personale, perché da noi non si può più assumere in nessun modo. C'è il blocco del turnover. Sì, ma è diventato un qualche cosa che sta uccidendo praticamente i comuni, insomma, perché nel frattempo la burocrazia si è quintuplicata, quindi insomma c'è un bisogno continuo. E quindi coniughiamo questa necessità cercando di mettere in equilibrio con la necessità magari della persona disoccupata, da un lato anche di essere appunto impegnato, perché noi abbiamo avuto anche delle persone che dicevano: guardate, io piuttosto che stare a casa dalla mattina alla sera, fatemi fare qualche cosa, perché io questa è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, io mi rivolgo anche agli ascoltatori, ai quali chiediamo anche di esprimere la loro opinione su questo 800 24 00 24, di non sottovalutare questo aspetto di sentirsi utili, di sentirsi impegnati, perché può avere anche una ricaduta sociale ed economica, cioè in caso proprio di depressioni, ma insomma in generale può essere dà un apporto anche al PIL, cioè avere delle persone che ripuliscono i boschi o che fanno andare avanti una biblioteca o che aggiornano le banche dati di un comune, facilitando il lavoro poi di chi ha a che fare col comune, per esempio le imprese, i cittadini, questo può essere, è PIL, insomma, diciamocelo chiaramente. Quindi anche se non c'è stipendio, c'è sussidio, poi il comune si deve occupare dell'assicurazione, credo, questo magari ce lo spiegherà lei, esatto, però è PIL anche questo. Beh, guardi, io penso proprio di sì, perché alla fine oggi per motivi di risparmio di fatto stiamo tutti fermi sostanzialmente, ma il fatto di rimanere fermi genera una condizione che sicuramente non può smuovere l'economia, non può far migliorare nulla. Cioè, noi oggi abbiamo bisogno invece di fare una cosa contraria, un po' come quando si parla del patto di stabilità. Cioè, è vero che col patto di stabilità lo Stato risparmia soldi e quindi cerca di andare nella direzione del risanamento del bilancio, è vero anche che nel frattempo con questo non genera ovviamente una movimentazione dell'economia, non fa lavorare le imprese, non fa andare avanti i comuni, e poi alla fine il risultato finale comunque beh, che tutto rimane così com'era e sì, anche le città si degradano nel frattempo. Senta, Massaro, sindaco di Belluno, lo ricordo, lei ha detto che avete fatto ricorso, diciamo, a una possibilità che già esiste, quella di, diciamo, di far lavorare appunto i cassa integrati, esatto, che stanno nel suo comune, però questo è una previsione che c'è, ma mi corregga lei, in passato, forse perché si ragionava diversamente, è stata scarsamente applicata questa previsione, ci sono tra l'altro una serie di vincoli, di limiti, adesso e anche di perplessità da parte del sindacato, tutto quello che volete, adesso c'è una proposta di legge bipartisan firmata da Pietro Ichino a Roma proprio per facilitare situazioni come quella che avete in qualche modo creato voi lì a Belluno insieme ad altre città italiane. Potrebbe aiutare? C'è bisogno, secondo lei, di un intervento, anche di una legge che consenta, favorisca, faciliti questi percorsi di occupazione dei cassa integrati? Ma guardi, sì, sicuramente qualcosa ci sarebbe bisogno. Noi oggi appunto possiamo, grazie alla normativa attuale, possiamo fare ricorso a queste persone pagando loro l'assicurazione, quindi noi paghiamo l'INAIL per capirci, poi invece il sussidio loro lo ricevono direttamente dallo Stato. Vi è però la difficoltà dovuta al fatto che noi chiediamo le persone all'ufficio del lavoro, all'ufficio collocamento, insomma, per, come si chiamava un tempo, e l'ufficio collocamento ce le manda. Le persone non sempre vengono in modo volontario, perché in alcuni casi loro vengono inviati dall'ufficio del lavoro, vengono in modo non volontario, e quindi questo può essere, tra virgolette, un problema, perché naturalmente una persona che non è motivata ovviamente è un problema, nonostante il comune appunto in cambio cerchi di offrire un'esperienza di lavoro che possa essere utile poi dopo a essere ricollocato. Quello di cui ci sarebbe bisogno, secondo me, è un intervento in cui appunto si possano fare lavori socialmente utili, sì, ma riuscendo a sopperire alle enormi carenze che oggi hanno di personale i comuni, magari dicendo che lo Stato ti dà un contributo aggiuntivo come ammortizzatore sociale per l'attività che svolge presso il comune. Allora con questo avremmo sicuramente penso le file di persone che vorrebbero venire a lavorare nei comuni, e i comuni avrebbero finalmente quella manodopera di cui c'è grande necessità, perché vedi, c'è sullo sfondo veramente un paradosso. I comuni oggi hanno bisogno, penso soltanto al mio comune, avrebbe, sì, bisogno almeno di una 50-80 persone in più rispetto all'attualità, persone che c'erano un tempo, faccio notare, persone che se ne sono andate nel corso del tempo e non sono state rimpiazzate. Contemporaneamente basta uscire dalla porta del comune per vedere le file di persone che cercano un lavoro, certo, e paradossalmente non si possono incontrare queste che richiedono lavoro e i comuni che invece ne hanno enorme bisogno. Quindi bisogna lavorare, secondo me, su questo paradosso per cercare di andare incontro un po' alla esigenza attuale, insomma, della nostra società, almeno questo penso che credo che sia il punto centrale. Poi c'era stato un altro caso, quello della Alessi a Comegna in Piemonte, l'azienda di design che anziché fare ricorso a una vera e propria cassa integrazione aveva continuato a pagare i suoi lavoratori, ma non avendo bisogno di loro per un problema di sovrapproduzione li aveva prestati al comune per i lavori socialmente utili. In quel caso situazione un po' diversa, l'adesione sempre volontaria era stata altissima, intorno al 90%. Insomma, tra un caso e l'altro si possono trovare delle vie di mezzo. C'è a Roma, ripeto, in Parlamento una proposta dell'onorevole Ichino, staremo a vedere, perché la sensazione è che, insomma, possa essere in qualche modo una strada percorribile, se non una strada giusta. 800 24 00 24, cari ascoltatori, chiediamo i vostri interventi su questo e ringraziamo il sindaco di Belluno Jacopo Massaro per averci raccontato la loro esperienza. Grazie a voi, buona giornata. Adesso ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. E buongiorno naturalmente a quest'ora anche a Carlo Gabardini. Buongiorno, Carlo. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buon sabato. 800 24 00 24, ricordo solo il numero verde, poi ricordo anche che questa settimana la parola che è chiave per le vostre buone notizie che dovete cercare, però dovete scriverci, non dovete chiamarci oggi, mi raccomando, dovete scriverci alla mail entro mercoledì. È lavoro. Lavoro. Settimana scorsa era agricoltura, questa settimana è lavoro. E l'inviato dell'agricoltura lo sentiremo alle 9.30. L'hashtag che abbiamo scelto è inviati cercasi. È il nostro primo inviato. Il nostro primo inviato. La il new entry. Secondo sarà la settimana prossima sul lavoro. Scriveteci, si può fare a radio24.it, la nostra mail, ma poi anche su tutti gli altri canali. Su Facebook, sui nostri, se no il mio è Carlo Gabardini, il mio è Ale Maurizi, e poi si può fare 24. Ottimo. Allora, che cosa ha reso bella la mia settimana? Devo dire che è che sono finito sulla Gazzetta dello Sport, Alessio. Questo è per me un vanto incredibile. Ci sono pure finito immeritatamente, credo. Immeritatamente, assolutamente. Ci sono finito pure proprio sul cartaceo, quindi sulle pagine rosa. E credo che a questo punto posso chiudere la mia carriera. Ci sono pure finito vestito di tutto punto da sportivo, da giocatore di football americano. Questo per il video che la trasmissione qua si può fare ha accompagnato, perché vi ho diciamo dato conto di tutte le fasi successive, che è finalmente online, fatto con i Lions Bergamo, la squadra di football americano, contro l'omofobia nello sport, video, un tema importante. Esatto, e quindi c'è stato questo articolone sulla Gazzetta, perché il video è oltre le 100.000 visualizzazioni, è arrivato anche in Brasile, negli Stati Uniti. Mi ha fatto molto ridere perché c'è un sito negli Stati Uniti che ha tradotto la didascalia del video in realtà con Google Translate, per dire, non si sono impegnati moltissimo. E cosa ne è venuto fuori? Quindi io che nella didascalia mi sembra che c'è scritto che sono che interpreto Olmo, la celebre sitcom Camera Caffè, è tradotto con The Famous Elm in Camera Caffè, e quindi mi sembra una traduzione proprio letterale, cioè Olmo, Elm, come se il personaggio si chiamasse Elm, e invece, perché giustamente da Google Translate avrà pensato che fosse un albero e niente più. Certo. Esatto, infatti si chiederanno come mai questo signore che fa l'albero poi improvvisamente fa un video vestito da football americano contro l'omofobia. È un bravissimo attore. Esattamente. A proposito di omofobia, ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato qui in trasmissione più volte, dei corsi anti-omofobia e anche, diciamo, di tutto un progetto su favole e fiabe che trattassero l'argomento sessualità in maniera non eterocentrica. E adesso pare che si stia un po' bloccando tutto. È arrivata a tutti i dirigenti scolastici di elementari, medie e superiori una circolare del Ministero dell'Istruzione che rinviava data da destinarsi appunto questi due giorni di corso di formazione per insegnanti previsti per questa settimana, confermando così una voce che circolava da tempo, ovvero che pare che ci sia un po' una lotta, diciamo, fra PD e invece la linea più alfaniana, che non è molto d'accordo con questi corsi anti-omofobia. A tal proposito, in realtà va anche aggiunto una notizia di un po' di tempo fa, dove mi ricordo che Vladimir Luxuria doveva fare un'assemblea al liceo Muratori di Modena e questa cosa le venne impedita addirittura dai genitori, che scavalcarono i voti dei loro figli dicendo: questa assemblea non si può fare perché ci vuole un contraddittorio. Che è una cosa che mi fa un po' ridere, perché che contraddittorio ci vuole? Nel momento che uno parla di accettare le diversità, il contraddittorio non saprei che cosa sia, non so, forse dei nazisti. Cioè, un po' come per dire, quando inviti Saviano per parlare di mafia e narcotraffico, a quel punto devi anche invitare, non so, Riina a dire due parole, probabilmente anche due pusher, così, per par condicio. E quindi non mi sembra una grande trovata. C'è sempre, parlando di video, c'è un video molto divertente su YouTube che vede come protagonista un bimbo di 4 anni americano che chiama il loro numero dell'emergenza, il 911, il 911, per chiedere aiuto in matematica. Il video fa molto ridere, molto divertente, ovviamente bisogna andare a vederselo, è in inglese, però vi leggo un pezzettino di questa telefonata breve, dove il bimbo dice: ho bisogno d'aiuto. E lo qual è il problema? Ho bisogno d'aiuto con la mia matematica. Dice con tua mamma, dici. No, con la mia matematica. Io la devo fare. Mi puoi aiutare? Dice questo bimbo di 4 anni. Ho capito, dove vivi? Ma io voglio che tu me lo dici al telefono, che mi aiuti con la matematica, non dove vivo. Ma io non lo posso fare, posso mandare qualcuno che ti aiuti. Su quale problema di matematica hai bisogno di aiuto? Devo fare le sottrazioni. Povero, 4 anni. È stupendo. E a un certo punto gli chiede: 16 meno 8, quanto fa? E il poliziotto è molto bravo, perché non è che glielo dice, gli dice: dimmi, quanto fa secondo te? Vedi, però la morale è che i poliziotti servono a tante cose, cioè vedi, Stato è presente anche in queste cose. No, non direi questo, ma però la cosa divertente è che a un certo punto interviene la mamma e dice: Johnny, ma che cosa stai facendo? E il bambino dice: il poliziotto mi sta aiutando con la mia matematica. La mamma non capisce, dice: ma che cosa hai fatto? Hai veramente chiamato la polizia? E il bambino risponde: tu mi hai detto, se hai bisogno di aiuto, chiama qualcuno. È sul concetto di aiuto che non c'era molto accordo. E arriviamo invece alla notizia che sta per scattare, l'Ora della Terra 2014, ovvero questo progetto del WWF, per cui per un'ora viene chiesto a tutto il mondo di spegnere completamente tutte le luci, di consumare meno elettricità possibile. Sì. Questo progetto, tra l'altro, inizia esattamente adesso, perché le città spegneranno le luci. C'è anche un video, sì, adesso. Esatto. Poi ci saranno anche l'appello dei VIP, quando arriva li facciamo sentire, vai. Le città spegneranno le loro luci ora dopo ora seguendo il fuso orario, quindi inizia ufficialmente adesso a Samoa alle 20:30, che per noi sono adesso le 8:30 del mattino, e poi si concluderà a Tahiti. Da noi alle 8:30 di oggi bisognerà spegnere le luci. 7.000 città, 154 paesi del mondo, 2 miliardi di persone, a Roma, Piazza San Pietro, il Colosseo. Per accendere un messaggio. Senti, di speranza. Totti. 60 minuti da dedicare al nostro pianeta. E tu non puoi assolutamente mancare. Questi sono i testimonial del video. Cambiamento. E questa è la sfida per il futuro del mondo. Il 29 marzo alle 20:30. Torna l'ora della Terra. Fate come me. Spegnete la luce. Spegnete la luce alle 20:30, l'ora della Terra. È organizzata dal WWF per sensibilizzare al risparmio energetico, certo, alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sul pianeta. Una cosa che c'è dal 2008, se non ricordo male, ed è una bellissima iniziativa. Per cui noi vi vogliamo anche chiedere, giusto? Cosa volete fare voi stasera in questa ora di buio? In questa ora di buio. La cosa più bella che avete fatto al buio nella vostra vita, per esempio. Raccontateci. 800 24 00 24. In regia ridono, e chiaramente, perché cosa viene in mente? Si possono fare tante cose: una cena a lume di candela, guardare le stelle, altre cose pure. Twittare. No, perché quello usa dell'energia elettrica, però è energia che ho consumato prima, perché potrei ricaricare tutti i miei oggettini, diciamo, fino alle 8:30. Poi delle 8:30, stavo scherzando, ovviamente questo non vale, bisogna non consumare energia. Allora, sentiamo qualche ascoltatore. Cominciamo con Lidia, che ci chiama da Torino. Buongiorno Lidia. Buongiorno a tutti e grazie a Radio 24 per la compagnia di altissimo livello che mi fa. Senta, grazie, io volevo Lidia. Intervenire per i lavori socialmente utili. Allora, secondo me io non li farei solo facoltativi, li metterei obbligatori, ma per un'esperienza mia qui a Torino, dintorni, dove purtroppo, come in tante parti d'Italia, le realtà di aziende che chiudono sono giornaliere, e quindi sono importanti, perché conosco parecchie persone che sono in cassa integrazione, in cassa in deroga, che bellamente fanno altri lavori mentre percepiscono il contributo e lavorano in nero, ma tantissime realtà non si sognano neanche di andare a, che so io, magari ci sarà qualche caso isolato, perché la persona per bene si trova sempre, non voglio generalizzare, però in linea, insomma, lei massima, è favorevole, anzi addirittura ad estenderlo oltre la volontarietà, sì, anche con una forma di obbligo obbligatorio, perché abbiamo bisogno in tanti settori chiaro. Grazie Lidia. E tra l'altro abbiamo ricordato che c'è una proposta di legge bipartisan firmata da Echino su questo. Staremo a vedere. 800 24 00 24, chiamateci, potete raccontarci anche che cosa ha reso bella la vostra settimana, oppure raccontarci cosa farete durante l'ora della Terra al buio questa sera alle 20:30. Però dopo il giornale radio, a tra poco. A dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Sì, parola odio e pure l'amore. Sì, non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, sì, in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu li ha superato. Cado piaccio dalla mia indio, momento rotto. Rosse, Curre Curre Guagliò, la vostra canzone, il vostro si può fare, questo ce lo segnalava Giovanni Romani, grazie Giovanni. Ce la ricordiamo tutti, noi che non siamo più giovanotti. Anni 90, esattamente il 94, perché il motivo della segnalazione credo sia questo, che c'è il progetto 99 Posse 2.0, perché sono proprio 20 anni da questa canzone che ha segnato un po' l'epoca dei primi rap, queste erano le posse, però insomma il genere era quello. 94, Cure Cure Guagliò, Giovanni Romani, grazie all'ascoltatore, continuate a segnalarci le vostre canzoni, quelle che vi danno la carica, il vostro si può fare, su Facebook, su Twitter, dove volete. Stasera alle 8.30 c'è l'ora della terra, spegnete la luce, mi raccomando, partecipate, sì, a questo evento del WWF, si possono fare tante cose. Per esempio a Piazza San Pietro sarà bellissimo perché si spegnerà tutta la facciata e la cupola. È un evento che inizia alle 16 addirittura, sì, attendono per i romani, insomma, che sono fortunati. Ma in tutte le città ci saranno eventi. Quindi ognuno vada a cercarsi l'evento nella propria città, sì, se non vuole stare da solo, soprattutto perché ha paura del buio, direi, perché è giusto organizzare delle cose. Un problema. Esattamente. Io anche il claim me lo farei quello, che ha paura del buio esca e si incontri con qualcun altro e stia in compagnia. Si può fare una cena a lume di candela romantica, cucinando ovviamente niente col forno a microonde, giusto? Esatto, tutta roba cucinando cruda, con degli accendini, non so, delle cruderie. Oppure si può andare fuori a guardare le stelle. A Milano bisognerebbe spegnere tante luci, perché non credo che tipo l'illuminazione stradale verrà spenta. Però sono serate chiare, quindi secondo me stasera, se c'è un po' d'effetto, sì, qualche cielo stellato lo vedremo. Si spegne anche la fontana dell'Acqua Paola sul Gianicolo, quella della grande bellezza, quella bellissima, eh? Quella della grandissima bellissima, no? Volevi dire, eh? È venuta male, lo so. Va bene, 800 24 00 24, chiamateci per raccontarci cosa ha reso bella la vostra settimana. E questa settimana sicuramente l'ora della terra, l'evento del WWF, può essere l'occasione giusta da raccontare. Abbiamo Luigi che ci chiama da Vicenza intanto. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Prego, ecco, per quanto riguarda l'utilizzo dei cassi integrati, che sono soggetti alla legge lì del, sì, eccetera, io ritengo che debba essere strettamente necessario a fare l'obbligatorietà proprio per quanto riguarda l'utilizzo di queste persone. Io vedo in giro nei comuni, io giro, faccio il manutentore in giro per determinate i condomini, faccio questo, io vedo persone ferme a casa nei condomini, a destra e a sinistra, ferme a casa, e nessuno, conosco persone che sono 4 anni fra cassa integrazioni, contratti di cose in deroga, cos'è che sono, eccetera, sono a casa da 4 anni e nessuno mai è riuscito a metterli in serie, in possibilità di, una volta un certificato, una volta hanno scantato, una volta hanno trovato che sono distanti, sono in disagio, nessuno mai. E ci sono. No, nel senso che loro vorrebbero, ci sta dicendo? O loro cosa? Ci sta dicendo che loro vorrebbero lavorare o che loro non vogliono lavorare? Ma la maggior parte non vogliono. Ah. Anche perché mi chiedo se lei va a fare il manutentore dentro nei condomini, che è tutto pieno di disoccupati, potrebbero farla loro la manutenzione, era questo, sì, che esatto, voleva dire. Sì. Se c'è la buca, se c'è la buca fuori dal gradino, non mettono mica che ci vuole un sacchetto di malta, eccetera, non lo mettono, non lo fanno. Vabbè, però quello è anche difficile pretenderlo da un cittadino che si occupi lui delle buche. No? Però se fosse fatta una squadretta, esatto, che ci fossero l'obbligatorietà intanto di esserci, e lì un giorno non fai niente, ma il giorno successivo cominci a capire qualcosa e cominci ad andare avanti. E questa è una cosa per quanto riguarda. Vedo che insomma molti ascoltatori, grazie Luigi, grazie, spingono dell'obbligatorietà, cioè di passare a un discorso di volontariato a un discorso di obbligatorietà. In realtà la legge già adesso prevede una forma di obbligo, però il sindaco di Belluno Massaro ci spiegava che questo può essere anche un problema, perché se uno è costretto a fare un lavoro, ci va malvolentieri, non funziona. Poi anche perché uno è cassa integrazione, perché in realtà stava svolgendo un altro lavoro da un'altra parte, sì, non è che il lavoro va bene qualunque lavoro. Insomma, dipende anche dalle aspettative. A parte che questo è giusto, non vorrei che il manutentore che ci ha appena chiamato, se tutti sono obbligati a lavorare e a occuparsi loro della manutenzione, perderà lui il lavoro. A quel punto sarà anche lui in cassa integrazione. Non possiamo neanche fare tutti i manutentori. No, il caso che abbiamo raccontato di Belluno, in realtà si sta tratta di lavori che non farebbe nessuno per il comune, per i comuni che sono spolpati di forze vive dalla legge di stabilità, al patto di stabilità interna, alla spending review e quant'altro. Sentiamo un altro ascoltatore al volo, va, prima del traffico, Francesco da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Chiamavo in merito al proprio lavori socialmente utili, sì. E mi domandavo, la legge prevede che si può essere chiamati nel raggio di 50 chilometri. Ora io sono in mobilità, prendo 795 euro al mese, sì. Mi chiamano a 40 chilometri di distanza, spendo 300 euro al mese, me ne avanzano 4,95, 400 li pago di affitto, me ne rimangono 95 per pagare bollette e vivere. Come faccio? Cioè, beh, sta dicendo un che sarebbe un costo nel momento che le trovano un lavoro a 45 km di distanza? Sì. Indubbiamente sì. Certo. Beh, insomma, Francesco, grazie. Ma del resto che ci sia qualcosa da mettere a punto su questo, c'è una proposta di legge, lo ripeto per l'ennesima volta, di Pietro Ichino, perché è un meccanismo che fino ad ora non ha funzionato. Bisogna metterlo a punto, no, perché può produrre anche qualcosa di buono. È anche un dato preciso questo, in saldo dell'ascoltatore, nel senso che forse perlomeno le spese vive dovrebbero essere coperte, esatto. O da una parte o dall'altra, cioè o lo Stato o l'ente pubblico che ti dice tu sei in cassa integrazione, vieni a lavorare per noi, perlomeno. A parte che forse si può spendere anche meno di 300 euro se si può andare in treno. Per esempio a Roma, ma anche in altre città, i pensionati che smistano il traffico davanti alle scuole ricevevano fino a poco tempo fa, fino a che il comune non era finito definitivamente in bolletta, dei buoni pasto. È volontariato, però uno in cambio un buono pasto. Perché no? Mica ti fa schifo. Anche perché poi oggi con poi i buoni pasto ci si fa anche la spesa, insomma, nel caso. 800 24 0024, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Carlo, tu sai che cos'è il halal? Halal, sì, è un metodo. No, se quello... non lo sai, puoi anche dire. No, non lo so. Almeno è il corrispettivo, diciamo, il kosher per gli ebrei. Questo l'halal è per i musulmani, se non ricordo male. Sì, halal male. È tutto quello che rispetta, diciamo, le leggi islamiche, esatto, della religione musulmana, e quindi meglio conosciuto, applicato al cibo, come cibo halal, cioè quel cibo che non avrà maiale, che non che avrà i musulmani possono mangiare rispetto a quelle animale. Che sono le loro credenze. Allora si svolge, questo però non lo saprai, proprio a Roma, in Italia, in questi giorni, il World Halal Food Council. No, questo proprio cioè non lo la più sapevo, non mi hanno invitato. Sessione, chissà perché, internazionale di discussioni sul mercato del cibo halal, che è una roba che vale migliaia di miliardi nel mondo. È la festa del kebab, se possiamo dirlo? Non so se è offensivo, ma potrebbe anche essere una sintesi. Noi ne vogliamo parlare, un mercato questo che in Italia sta crescendo molto. Ci sono sempre più aziende che si occupano di produrre cibo halal per i musulmani in Italia, ma anche da esportazione. Sì, avevamo anche dato una volta la notizia di alcune macchinette, di quelli che si erano specializzati nelle macchinette come si chiamano, che danno il cibo, gli automatici. Ah, sì, sì, macchinette automatiche con dentro anche il cibo halal. Ne parliamo con Sharif Lorenzini, buongiorno, che è Buongiorno. Presidente della sezione italiana di Halal International Authority, cioè c'è pure un'autorità internazionale. Sì, sì. E nel mercato halal ormai tutto si sta regolamentando a livello internazionale in modo da dare maggiore garanzia, sì, ai consumatori, ma anche ai produttori che sono di buona volontà di prodotto di eccellenza che vogliono essere garantiti da eventuali truffe commerciali e frodi. Ah, senta, ci può dire intanto, noi abbiamo così descritto sommariamente, che cos'è il cibo halal? Che caratteristiche bene ha? Il cibo halal in maniera molto pratica è il cibo salutare, il cibo privo da ogni forma di danno per la salute umana. È vero che la halal è una parola araba che significa conforme alle regole della Sharia islamica, sì, ovvero la legge islamica, ma in effetti è l'intento ultimo è quello di liberare ogni cibo e bevanda che l'uomo consuma, assume, ma non solo, sì, anche tutti i materiali, cosmetici, farmaci, abbigliamento, eccetera, da ogni forma di sostanza che può portare danno. Ecco, ma andando sul concreto, quali sono queste sostanze che possono arrecare danno? Le sostanze che possono arrecare danno normalmente sono divise in due categorie. Categoria di sostanze di origine animale, proveniente da animali non ammessi non ammessi dalla religione islamica. Quindi in questo caso più che fare male è semplicemente una questione normativa che riguarda legittimamente, giustamente l'Islam. E quali animali riguarda? Il maiale? Riguarda tutti gli animali non erbivori, perché l'Islam ammette solo il consumo di animali erbivori. Erbivori. Quindi noi quando tutti compriamo cibo halal sappiamo che ci sono solo animali erbivori. Esattamente, tutti gli animali onnivori o carnivori non sono ammessi dall'Islam. Va bene, invece l'altro capitolo delle sostanze non ammesse qual è? Sono le sostanze cosiddette inebrianti o intossicanti, ovvero le sostanze che possono ridurre le capacità facoltative mentali dell'uomo, quindi per esempio gli alcolici, oppure pensavo alla maionese. No, mi scusi, era una battuta. Esatto. Sono quello stupido dei due, non sono il giornalista. No, no, assolutamente la sua è un importante appunto, perché è vero che gli uomini sono diversi tra di loro, ma il legislatore, in questo caso per l'Islam di Dio, deve trattare tutti alla stessa maniera, quindi o sì per tutti o no per tutti. In questo caso ha deciso. Però scusi, continuiamo l'elenco. Le sostanze che non sono ammesse sono sostanze alcoliche, poi? Prevalentemente sono queste due categorie. Ok, quindi diciamo, lei ha fatto una premessa dicendo nel cibo halal c'è tutto quello che non fa male alla salute, però traducendo non ci sono animali carnivori e non ci sono alcolici. Ma questo riguarda appunto giustamente questa giurisdizione, diciamo, nell'ambito della religione musulmana. Chi la segue vuole il cibo halal. In Italia sono tanti, sono in crescita le aziende che producono questo tipo di cibi. Sì, ormai grazie alla presenza della filiale italiana della Halal International Authority dal 2010 sono state certificate più di 230 aziende italiane e finalmente possiamo avere il Made in Italy marchiato Halal che può raggiungere tutti i confini del mondo. Quindi non solo per l'Italia ma anche per l'estero, cioè ci sono aziende italiane che esportano all'estero? Assolutamente. No, più del 90% delle richieste che provengono dalle aziende italiane provengono perché hanno già ricevuto di fatto un ordine di commessa dall'estero, a condizione che siano prodotti certificati halal e quindi si rivolgono all'autorità riconosciuta per poter ottenere quel certificato. Ci fa un esempio però di un prodotto alimentare diverso tra il mercato comune, quello che anche io che non sono musulmano posso acquistare, e invece un prodotto halal, cioè un esempio, un'insalata è la stessa cosa, non cambia. Bene, per quanto riguarda le sostanze naturali, naturali, ovvero che non hanno subito processi industriali, perché ahimè quello che contamina il cibo è proprio il processo industriale. Come l'insalata, come la frutta, la verdura, questo non cambia. Sono per natura halal. Quello che viene in qualche maniera verificato è che all'origine non abbiano ricevuto trattamento di concimazione, di antinsetticidi che possono in qualche maniera nuocere alla salute umana, e alla fine che quella sostanza non è stata contaminata lungo il processo di produzione. Ah, ma quindi stiamo parlando anche tipo dei fertilizzanti, perché in realtà questo mi sembra, mi corregga se sbaglio, questo non ha a che fare, diciamo, con la religione islamica, giusto? Cioè il fatto se uno usa o meno dei fertilizzanti per l'insalata non credo che sia contro la religione islamica, o sì? Diciamo che, come ho esordito dicendo, che la religione islamica, cioè Dio, vuole proteggere l'uomo da ogni danno alla sua salute. Sì, solo che è un po' generico così, nel senso che questo io spero che anche lo Stato voglia proteggere gli uomini dalla sua salute, quindi tutti i prodotti dovrebbero essere che non creano danno alle persone. Poi c'è una questione soggettiva, nel senso che poi uno può decidere l'alcol sì, l'alcol no, il caffè sì, il caffè no. Fagli spiegare. Esattamente, esattamente. Infatti, proprio quello che lei dice è correttissimo, cioè questi prodotti in un paese come l'Italia, molto attento sia a livello normativo che a livello produttivo alla salute umana, i limiti sono già rispettati, tanto è vero che noi diciamo che l'Italia è a pieno titolo un operatore nel settore halal che ha grandissime potenzialità di diventare leader. Cioè, quindi il nostro cibo, anche industriale, a meno che non contenga animali carnivori e alcolici, è già halal in qualche modo. Esattamente, nella stragrande maggioranza sono prodotti genuini, produzione, il prodotto italiano è un prodotto che rasenta il prodotto artigianale, quindi che dove viene usata molta cura, molta cultura della gastronomica, attenzione alla qualità, e quindi rispetto a tanti altri prodotti di altri paesi, anche vicini europei, sì, molto più importante in termini di qualità. Però ecco, me lo fa un esempio invece di un prodotto che lei sa che non va bene per il cibo halal, un prodotto che noi, diciamo, non musulmani consumiamo regolarmente, però che non sia un alcolico, perché sennò così è troppo facile. Sì, certamente, certamente. Per esempio i latticini, formaggi, per esempio. Il formaggio DOP, come per esempio il grana padano, sì, ha come ingrediente determinante nel disciplinare proprio l'utilizzo di caglio di origine animale, caglio bovino. E questo per il musulmano è un elemento critico. Ma questo vale per tutti i formaggi o solo per il parmigiano? Il caglio è un elemento di tutti i formaggi, no? Tutti i formaggi. Tutti Io formaggi. Ho voluto prendere un esempio, diciamo, preciso, perché vorrei anche collegarmi con un altro aspetto di carattere economico che fa perdere all'Italia molta opportunità. Cioè il prodotto DOP, che è il parmigiano reggiano, sì, che è il grana padano, che deve essere prodotto solo in determinate aree geografiche in Italia, viene venduto invece in tutto il mondo islamico. Invece quello che proviene invece da Germania, da Francia, Belgio, e viene spacciato per un prodotto italiano. Ma perché loro non usano il caglio? Perché loro effettivamente usano un caglio certificato halal. Ah, quindi lei ha un suggerimento che sta dando anche a chi produce il formaggio in Italia, il parmigiano in particolare, che è il più famoso nel mondo italiano, di trovare un disciplinare che possa essere compatibile con halal. Assolutamente, la Halal International Authority ha il proprio standard di qualità riconosciuto a livello internazionale, che infatti il primo che ha certificato il più grande, i più grandi. Bisogna vedere però come viene il parmigiano con questo caglio, non quello originale, perché se cambia dal nostro sapore, punto di vista è più buono. Poi dal vostro, ma addirittura, vabbè, è più buono di sapore o è più buono perché rispetta le norme halal? Cioè, potrebbe è essere più buono, sì, è più buono anche di sapore, e le consiglio proprio di andare a comprare anche mezzo chilo di carne halal e faccia pure lei il suo esperimento di carne, sì, di sapore. No, che mi fa come il mezzo chilo di parmigiano fatto in Germania. È interessante sottolineare questa cosa del parmigiano. Cioè, quello che potrebbe uscire da questa cosa è chi produce il parmigiano, per esempio, se avesse interesse a farlo, potrebbe produrre una altra genere, un'altra categoria di parmigiano halal, completamente Parmalal diverso, certo, ma fatto all'interno, diciamo, delle garanzie del parmigiano, che è il miglior formaggio italiano eccetera nel mondo, però per quel mercato lì, perché no? Potrebbe essere un suggerimento. Sharif, grazie intanto. Grazie mille. A voi, grazie per essere stato con noi. Ai vostri ascoltatori. Comunque, la notizia è questa: il World Halal Food Council, che si svolge a Roma dal 27 al 29 marzo a Roma. Come dice su Twitter, sapevatelo. Cioè, almeno per saperlo, no? È una notizia. Ottimo. Poi alla fine grosse differenze abbiamo capito che non ci sono, cioè si tratta sugli animali e sugli alcolici. Sì, no, io non sapevo, è interessante questa differenza che sia in realtà sugli animali carnivori o onnivori e non solamente sul maiale, perché penso che tutti pensavamo che fosse semplicemente il maiale, invece non è così. Forse stringi non... Beh no, e poi questa cosa del caglio, il problema è che il caglio, non capisco che problema ci sia nei confronti del caglio, ma insomma... Dovremmo fare un'altra puntata per approfondirlo. Esatto. 800 Lo invitiamo 24, una mucca ovviamente. 0024, tra un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. E da avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Abbiamo un paio di ascoltatori che ci chiamano. Sentiamo Guido da Brescia. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo tornare un attimo sull'argomento dell'obbligatorietà dei servizi socialmente utili per i cassa integrati. Volevo dire che sarebbe secondo me estremamente utile, anche perché eviterebbe un fenomeno secondo me molto diffuso, almeno nella nostra zona, che è quello che i cassa integrati poi vanno a svolgere lavori in nero e in questo caso portando via opportunità di lavoro anche ad altre persone. Ok, grazie Guido, mi sembra che la linea sia abbastanza favorevole da parte degli ascoltatori. Chiaro, quando poi si mette in gioco in prima persona, come raccontava quello di prima, che è in mobilità, guadagna 700 euro e per andare a 50 km spende 300 al mese. Sono interessanti poi quelli, dobbiamo sentire un po' di cassa integrati, sì. Perché gli altri dicono tutte, ma sì, lavorate un po' visto che già prendete, però per chi prende quei soldi in realtà già è arrabbiato nero perché deve stare a casa e non può fare il lavoro che vuole fare lui, se in più deve spendere dei soldi per fare un lavoro obbligatorio è difficile però. Lucia da Brescia, buongiorno. Buongiorno, Lucia. Pare che il bacino Brescia oggi faccia furore. Sono una volontaria dell'ENPA di Brescia e volevo sottolineare una cosa per quanto riguarda il discorso fatto sulle LAL. Sì. Si è parlato effettivamente di cibi sani, è ovvio, se uno non beve alcolici e mangia cibi controllati sicuramente sta meglio. Non si è parlato però di un lato che io trovo molto brutto delle LAL, che è il tipo di macellazione. La macellazione e l'AL, per questi poveri animali erbivori, avviene tramite sgozzamento e lento dissanguamento. Sì. È una pratica che, ahimè, lo Stato italiano ammette e tollera, però non trovo, dal mio punto di vista animalista, accettabile per una società civile. Lucia, ha fatto bene. Praticano anche per il kosher, quindi di conseguenza non è una questione di punto di vista o di razzismi vari. Effettivamente è un tipo di macellazione che non è molto corretta. Grazie Lucia, ha fatto bene a dirlo in effetti, perché è un aspetto che noi non avevamo trattato. L'intervista era un po' più in generale su questa nuova tendenza per quanto riguarda l'età del mercato halal, però è chiaro che dietro c'è anche questo e quindi insomma chissà poi per quale motivo. Questa domanda avremmo potuto fare a Sharif. Beh, perché è il vecchio esatto, rispetto alle tradizioni a quel punto di vista, forse è un passo che potrebbero fare invece nei confronti insomma, di migliori sofferenze per gli animali, diciamolo. È questo. Sì, ho la sensazione che non cambieranno la religione per migliorare il metodo di macellazione. Basta che cammino halal anziché religione. Adesso è arrivato il momento. L'hashtag su Twitter è inviati, cercasi. Noi abbiamo lanciato questo contest a Radio 24. Cerchiamo inviati a caccia di buone notizie. Questa settimana siamo partiti la settimana scorsa e adesso ne raccogliamo i frutti col tema dell'agricoltura. Il primo inviato lo sentiamo tra un attimo. Questa volta è un giornalista già fatto e formato, però il contest è aperto veramente a tutti gli ascoltatori che vogliono raccontarci le buone notizie agricoltura. Scelto questa News of the World come sigla per lanciare i nostri inviati e il primo, l'abbiamo detto, è un giornalista, un blog sul Fatto Quotidiano, ha scritto tra l'altro anche recentemente un libro, però ha aderito alla nostra iniziativa, ci ha segnalato una bella notizia che riguarda i semi della frutta e della verdura. La Repubblica degli Orti, una rete transfrontaliera Italia-Francia, io sto buttando lì un po' di cose ma ce le racconterà tutte lui, Andrea Bertaglio. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il nostro primo inviato cercato, così, inviati cercasi, tramite il nostro contest. Un onore, un piacere. Abbiamo scelto apposta per il primo giro di prendere uno che è già un giornalista, però così non il contest è aperto diciamo a tutti e cerchiamo chi il giornalista non lo fa ancora. Oppure gli interessa. Non spaventatevi, insomma. O magari lavora su qualche giornale di cronaca locale. Andrea Bertaglio ci ha segnalato una notizia interessante che riguarda i semi della frutta e della della verdura. Qual è la notizia, Andrea? La notizia è che c'è questo progetto che si chiama Bio Europe ed è un programma europeo che una volta tanto è stato finanziato per cose molto, molto interessanti, tipo 200 passa milioni sono arrivati dalla Commissione per questo programma che si chiama Alcotra, e il programma si chiama in realtà Una rete per le biodiversità transfrontaliere e mira a salvaguardare i semi appunto delle le specificità ortofrutticole dei due versanti alpini dell'Italia e della Francia, quindi è un progetto che interessa sostanzialmente il Piemonte e la PACA, la Provenza. Però perché diciamo, Andrea, questa è una buona notizia? Perché dicelo tu, perché è una buona notizia il fatto di andare a salvaguardare semi antichi di frutta e verdura che forse vanno sparendo? Certo, è proprio questo il punto, è un'ottima notizia perché si salvaguardia la biodiversità europea, perché come vedete al supermercato o al mercato ormai compriamo con gli occhi e tra virgolette i vegetali, gli ortaggi, i frutti sembrano tutti e sono tutti uguali, quindi si preserva la biodiversità, che è una cosa importante a livello ambientale. Preservare una specie è preservare tutta una catena, quindi a livello ambientale è importante ed è importante a livello culturale perché mette in connessione ricercatori, agricoltori che salvaguardando certe specie orticole appunto danno modo a molte persone di lavorare, perché qui si parla di decine di agricoltori coinvolti in questo progetto, ed è un'ottima notizia anche per i consumatori, perché hanno più scelta e hanno prodotti che sono più gustosi, più esatto, sani, non hanno bisogno di porcherie per essere coltivati nella maggior parte dei casi, quindi è una buona notizia, un win-win-win per, in generale. Per tutti, mi sembra, chi non ha mai sentito dire o non ha mai detto mangiando a tavola questa insalata non sa di niente, non ci sono più i pomodori, chi magari ha una certa età, ma poi è una frase così che uno butta lì anche se in realtà non ha un ricordo vero, però è la verità, chi non ha detto ma i pomodori non sono più quelli di una volta, non sono buoni, e invece è proprio da questo che si parte, cioè salvaguardare delle specie particolarmente buone e gustose, perché il problema qual è che diciamo l'industrializzazione della comunque la diffusione su vasta scala dell'ortofrutta, che fa bene, le nostre tavole sono piene di ortofrutta e va bene, però c'è un'omologazione, c'è una... Assolutamente, assolutamente. Poi dicevi l'industrializzazione, qui lasciatemelo dire, il discorso che si sta facendo è esattamente il contrario di quello che porta avanti l'agricoltura industriale, quella dei cosiddetti OGM, quindi l'omologazione, i semi sterili, qui invece si sta parlando di conservare i semi ed è stata creata una banca in cui questi agricoltori si scambiano i semi e chiunque, andando sul sito bioeuro.info, può chiedere a questi agricoltori di averne alcuni per metterli nel proprio orto, eccetera. E tra l'altro, Andrea, è vero che, come abbiamo sentito a dire a proposito del grano, per esempio, si entra nei tecnicismi, ma è molto interessante che semi antichi, autoctoni e molto variegati possono dare luogo a produzioni più resistenti, diciamo, ai parassiti, anziché le produzioni, diciamo, omologate, tutte con lo stesso seme, che hanno bisogno dell'OGM per evitare l'antiparassitario. Assolutamente, quando una specie si è sviluppata nei secoli per crescere in un posto, vuol dire che ha avuto modo di farlo, quindi non ha bisogno di niente per poter crescere e dare i suoi frutti. Se ovviamente però si vogliono coltivare cose che non c'entrano niente in un certo suolo, in un certo territorio, è ovvio che c'è bisogno di ricorrere alla chimica. Ci sono c'è ad esempio un frumento che io ho visto anche in Sardegna un paio d'anni fa, andando al di fuori del discorso che stiamo facendo adesso, si chiama Senatore Cappelli ed è spettacolare e ha dato lavoro a tutta una filiera poi di mulini, di fornai eccetera, che da un prodotto che stava scomparendo anche lì e dal gusto appunto spettacolare, perché guarda una cosa, parlavi dei pomodori, in questa rete appunto di agricoltori transfrontalieri è stato fatto anche un documentario liberamente visibile su Vimeo, Seminare Futuro, e il videomaker che l'ha fatto è un mio caro amico, mi diceva guarda, questo agricoltore nei pressi di Avignon mi ha tagliato questo pomodoro ed era così, appena raccolto era come se fosse condito, una cosa spettacolare. Quindi meno bello da vedere magari, ma grandioso. E quindi, sono ancora le 10 di mattina, però ci sta venendo fame, una bella fetta di pane e pomodoro ci starebbe bene. Andrea, autore con un libro in libreria in questo periodo proprio, Generazione Decrescente, riflessione semi-autobiografica sul mondo che è e che potrà essere. Andrea, la domanda è questa: noi l'anno scorso abbiamo parlato molto di decrescita, avevamo un appuntamento fisso tutti i weekend, i consigli, l'Università del Sapere per fare, però quello che tutti si dicono è perché, anche se stiamo un po' decrescendo, la decrescita felice in genere si dice, non siamo poi così particolarmente felici, cioè questa è un po' una punzecchiatura che ti voglio fare. Certo, no, perché è un malinteso, perché quella che stiamo vivendo è recessione, non è decrescita. Decrescita è una presa di coscienza, è una provocazione col nome che ha, perché crescere, diventare grandi, migliorare è bello, ci mancherebbe, quando appunto in certi contesti, quando è necessario farlo. Quella che stiamo vivendo noi è recessione e non c'è niente di peggio in un sistema strutturato come il nostro sulla crescita. Quindi, per farla breve, decrescita è come mangiare meno perché ci si mette a dieta, quindi per motivi di salute, di forma, eccetera. Recessione è come non mangiare perché non si ha cibo. Si mangia meno in entrambi i casi, ma è ben diversa il motivo. Quindi decrescita contesta il fatto che si debba sempre stare a badare al PIL, al prodotto interno lordo, che cresce anche quando facciamo incidenti, acquistiamo psicofarmaci, come mi piace ricordare, quindi non indici del nostro benessere, e abbiamo tutte le politiche basate su una crescita dei consumi che è improbabile perché le risorse sono quelle. Quindi, e poi la generazione decrescente, appunto, in ogni caso non possiamo, a quanto pare, permetterci di consumare e sprecare come i nostri padri e nonni, però non vuol dire che dobbiamo vivere peggio o gettare la spugna visto il futuro che ci attende. Se volete approfondire Generazione Decrescente di Andrea Bertaglio, lo trovate in libreria. Grazie Andrea. Grazie mille per essere stato con noi. È il nostro primo inviato. Che bello, che emozione. È ancora in onda? È ancora in collegamento? No. Sì. No, perché volevo chiederti, visto che ti abbiamo usato anche come primo nostro inviato, però noi stiamo cercando nuovi inviati che vadano in cerca di buone notizie, volevo chiederti se tu davi un consiglio, visto che un po' tu fai da testimonial, diciamo, per questa cosa, se dai un consiglio ai nostri nuovi inviati che vogliamo cercare, per come si cercano buone notizie in Italia, nel mondo, dappertutto. Si cercano facendo attenzione, sviluppando un fiuto per le bufale che sono tante, ma soprattutto avendo passione, cercando cose originali, quindi non già dette, ripetute, preconfezionate, e in cui possibilmente si creda, cioè credere nel messaggio che si dà può aiutare. Un consiglio che do a tutti. Bravo, perfetto, grazie mille. Grazie a voi, ciao. L'hashtag che abbiamo scelto è inviati cerca. Esatto, bello questo consiglio. Ci tenevo a chiederlo perché, ripeto, come abbiamo già detto prima, non vorrei che qualcuno si spaventasse pensando: ah, ma come, cercate dei nuovi inviati e poi ci sono dei giornalisti. L'abbiamo fatto apposta di prendere uno che invece è già molto bravo ed è un professionista per iniziare per questa cosa. La e speriamo che invece il prossimo sia un diciottenne che non ha mai fatto il giornalista. Pensavo dicessi un analfabeta. No, anche bambinissimo. Il tema della prossima notizia, avete tempo fino a mercoledì per segnalarcela, è lavoro, in mi raccomando, tutte le sue accezioni. A tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo un altro ascoltatore. Oggi il tema dei lavori socialmente utili per i disoccupati ha monopolizzato l'attenzione. Luigi dalla provincia di Latina, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, non volendo generalizzare, sicuramente, perché non è che ci hanno tutte le opportunità, la volontà e i mestieri adatti, sicuramente è una buonissima cosa, se dalla giusta parte, dare a chi ci avrà 700-800 la cassa integrazione di stare impegnati. Chiaramente prima sentivo un ascoltatore che diceva: uno per 700 euro non è che può fare 50 chilometri, ma non è detto, perché nei comuni le strade sono sempre sporche, i comuni non hanno tanta possibilità. Con la cassa integrazione farli fare i lavori socialmente utili, cosiddetti, che poi non mi piace, una brutta parola, e si evita due cose: fa risparmiare forse alla comunità, ai cittadini, delle spese avendo altri dipendenti, e chiaramente queste persone la maggior parte vanno a fare doppi lavori e tripli, perché così si va nella giusta direzione, perché poi i controlli, diciamo, lo si fanno sempre sui commercianti. Luigi, ma lei di cosa si occupa? Io prima facevo l'imprenditore edile, sì. Veramente, diciamo, oggi sono quasi 20 anni che non lo faccio più, avevo capito prima che l'edilizia era un'opportunità che mai era finita in Italia, e adesso è stata proprio ammazzata con le tasse che si danno sulla casa. Quindi sì, anche con una sovrapproduzione di appartamenti invenduti, bisogna dire anche questo, è la verità. Grazie Luigi comunque per averci grazie. Chiamato, insomma, e aver commentato la storia da cui siamo partiti, lavori socialmente utili per i disoccupati, e poi il lavoro è anche il tema per la ricerca della buona notizia di questa settimana. Avete tempo fino a mercoledì per scriverci. E poi la più bella andrà in onda sabato prossimo. Adesso, hai visto che in settimana Grasso, il presidente del Senato, ha detto ci vuole una legge sulla cittadinanza. Non c'è più il ministro Chiang, però, che sosteneva lo Ius Soli. Però andiamo avanti noi. Però questo tema ritorna. Ha detto anche Renzi che potrebbe far parte del programma di governo una legge, magari all'iscrizione all'elementare o alle medie, che ti dà la cittadinanza se sei nato in Italia. E noi vi vogliamo raccontare un'iniziativa di Ius Soli in musica. Ascoltarla di più la canzone vincitrice della scorsa edizione, credo di dire giustamente, di Arezzo Wave. Però dobbiamo presentare il nostro prossimo ospite, che è Mauro Valenti, presidente della fondazione per l'appunto Arezzo Wave. Buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti. È vero che questa è la canzone che ha vinto la scorsa edizione? Sì, anche se diciamo che una i nostri finalisti sono un po' come dei figli, no? Quindi sono stati bravi tutti. Ma questa è una canzone, sì, bravi, avete indovinato. Va bene, Andrea Piana, il nostro autore, ha scelto bene. Mauro, qual è l'iniziativa Ius Soli Contest? Cosa volete dire e significare? Dunque, intanto noi siamo un festival da 28 anni presente tutto il territorio nazionale e che in ogni regione cerca i nuovi talenti, no? Cerca di aiutare nuove formazioni artistiche, quindi nuovi mestieri, e abbiamo pensato che in Italia ci sono circa 1 milione di giovani che sono nati nel nostro paese da famiglie che vengono da fuori, quindi da stranieri, oppure sono arrivati in tenerissima età. Sono un po' come il Trentino Alto Adige, no? E sono anche come il Trentino Alto Adige, una regione che parla più lingue, che ha diverse culture, e quindi abbiamo pensato bene che nella musica, visto che la musica migliore nasce dalla contaminazione, perché non dovrebbe essere così anche nella società? E quindi abbiamo deciso di creare una regione chiamata Ius Soli, una regione dove possano concorrere al festival di Arezzo Wave tutti quei gruppi che abbiano almeno un componente di seconda generazione al loro interno, proprio per dare un messaggio forte e normale, scontato, che alla fine siamo tutti uguali. Quindi siamo, se uno nasce nel nostro paese e vive la nostra cultura e arriva a 18 anni, sì, sembra assurdo che possa poi mettersi in difficoltà per non avere la residenza e il diritto di cittadinanza. E a volte anche per aspetti burocratici lunghi, faraginosi, e sì, arrivare prima nell'età sicuramente è un incentivo anche a sentirsi italiani. Nella musica e nello sport anche questo tema ritorna, perché non ci sono frontiere, non dovrebbero esserci, nello sport ci sono, ma sappiamo per esempio che l'hockey su Prato ha iniziato già ad ammettere, anche perché è praticato dagli indiani, no, in Italia, quindi ammettere lo sport stranieri. È facile, perché a volte ci sono anche dei giocatori bravissimi, uno dice ma perché non lo fanno? Facciamo italiano. Però Mauro, quello che ti volevo chiedere è questo: cioè, secondo te la società italiana è pronta a questo passo, per quello che è il tuo punto di vista, insomma, in particolare sulla musica, ma anche più in generale? Ma è questione proprio di aprirsi, no? E quindi se a uno piace la musica, è normale sentire che se Jovanotti suona, poi vedi che un percussionista cubano piuttosto che un altro paese, potresti veramente, come fai a pensare di eliminare un componente del gruppo? Non ha proprio senso. Fuori. E quindi vorremmo che questa normalità si applicasse anche ai luoghi comuni di tutti i giorni, insomma. La contaminazione è sempre stata una virtù, una fortuna, no? Conoscere nuove culture. Certo, giustissimo, giustissimo. È una bellissima iniziativa. Grazie mille, Mauro Valenti. Complimenti. Presidente della Fondazione Arezzo Wave. Questa era l'iniziativa, lo Ius Soli Contest. Noi siamo in chiusura. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno in particolare? Vogliamo commentare qualche messaggio? No. No, dovevamo chiedere la questione della macellazione su Halal. Questo sì, mi spiace molto. Bisogna approfondirla. Chiedo scusa. Sì, perché la prossima volta bisognava. Torneremo a parlarne. Grazie ad Andrea Piana, autore insieme a noi di questo programma. Grazie a Giorgio De Luca, autore insieme a noi, redattore di questo programma. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domani. Buona giornata da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao. Sì.